ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Settima puntata. Quando siamo partiti dal caposaldo, eravamo con le squadre al completo. Ora, guardando così, mi accorgo che mancano parecchi uomini, forse spersi nella tormenta, forse fermatisi in qualche isba, forse entrati nelle case appena arrivati qui. Ma nessuno si interessa a controllare chi manca. Quelli che sono rimasti si allontanano a gruppetti in cerca di un'isba libera dove entrare. Io solo rimango fuori e giro da una strada all'altra senza sapere dove andare. Perché non sono andato con i miei compagni di plotone, anzi con i miei uomini? Non lo so perché. Rimango solo, fuori sulla neve, e non so dove andare. Infine, vado a bussare a qualche porta, ma o mi rispondono male o non mi aprono. La maggior parte delle case è occupata da gente dell'autoreparto, della sussistenza, dei magazzini, della sanità. Voglio dormire un po' al caldo, perché non mi lasciano entrare? Non sono anch'io un uomo come voi. Eh no, non sono come loro, io. Sono solo in mezzo alla strada e mi guardo attorno. Mi si avvicina un vecchio e mi indica dietro una fila di isbe, in un orto, un cumulo di terra. Dalla terra sporge un comignolo e dal comignolo esce del fumo. Mi fa cenno di andare là e scendere giù. È un rifugio antiaereo. All'altezza del terreno vi sono due piccole finestre con vetri. Scendo per una scaletta scavata nel terreno e busso alla porta. Provo a spingere, ma è chiusa dall'interno. Qualcuno viene ad aprire. È un soldato italiano. «Siamo già in tre qui», dice. «È una famiglia russa». E richiude la porta. Batto. «Lasciatemi entrare», dico. «Mi fermerò poco, voglio solo dormire un po'. Non mi fermerò tanto». Ma la porta resta chiusa. Busso, la porta torna ad aprirsi. Si affaccia una donna russa e mi fa cenno di entrare. È caldo qui dentro. È come nella mia tana al caposaldo o nelle stalle, con la differenza che qui vi è questa donna russa con tre bambini e tre imboscati italiani. Ma ora ve n'è uno solo, perché gli altri due sono fuori. Quello che è rimasto mi guarda male. La donna mi aiuta a levarmi il cappotto. Devo avere una faccia proprio conciata male se mi guarda con quegli occhi pieni di compassione che quasi piangono. Ma io non so più commuovermi. Ora, l'imboscato che da un angolo mi guarda, come vede che sulla manica ho due straccetti di gradi e sopra il taschino qualche nastrino vuole attaccare discorso. Porca naia! E se fossi un conducente qualsiasi, un fuciliere, un mulo, una formica, non rispondo alle sue domande, mi levo anche l'elmetto e il passamontagna. Mi par di essere nudo. E svuoto le tasche dalle bombe, le metto nell'elmetto e mi levo le giberne che mi pesano sul ventre. Cavo da una tasca della giubba una manciata di caffè misto a neve e nel coperchio della gavetta lo pesto con il manico della baionetta. La donna ride, l'imboscato sta zitto e mi guarda. La donna mette a bollire l'acqua e fa alzare i ragazzini che mi guardano sdraiati su dei cuscini. Prende i cuscini e li mette su una specie di palco, vi butta sopra anche una coperta. La mia la mette ad asciugare vicino al fuoco. Mi fa cenno di salire sul palco e dormire. Mi siedo con le gambe ciondoloni e finalmente dico «Spasiba». La donna mi sorride e anche i bambini. L'imboscato mi guarda, sempre zitto. Levo dallo zaino la marmellata che mi aveva dato Adriano, non ho altro. E mangio. Voglio offrirne anche ai bambini, ma la donna non vuole. «Kushai», mi dice. «Kushai», mi dice sottovoce, ridendo. Quando l'acqua bolle, mi fa il caffè. E finalmente, dopo tanti giorni, mando dentro qualche cosa di caldo. Mi aggiusto il posto per dormire, mi metto vicino il moschetto e l'elmetto con le bombe a mano. Stamattina c'erano qui i carri armati russi, mi dice l'imboscato. Ma tu cosa fai qui, domando? Che cosa aspetti? Non vai col tuo reparto? Non risponde. Fuori fa freddo. C'è la steppa, il vento, la neve. Tanto vuoto attorno, i carri armati russi. E lui sta qui al caldo, con i suoi due compagni e la donna russa. Se senti sparare, svegliami, dico. Su di un asse, contro la parete di terra gialla, c'è una vecchia sveglia. E faccio cenno alla donna di svegliarmi quando la lancetta piccola sarà arrivata al numero 2. A quell'ora devo trovarmi con la compagnia. Sono le 11 ora. Dormirò 3 ore. E mi butto giù sui cuscini, vestito e con le scarpe addosso. Ma perché non sono capace di dormire? Perché penso ai miei uomini che sono nelle isbe al caldo? Perché sto con le orecchie tese a sentire se sparano? Perché non viene il sonno? Da tanti giorni non dormo. Ritornano i due imboscati che erano fuori e sento che parlano fra di loro. Sento un bambino che piange e sto con gli occhi aperti a guardare la parete di terra gialla. Il caposaldo, i chilometri, i miei compagni, i russi morti nel fiume, la Katiuscia. I miei paesani, il tenente Moscioni, le bombe a mano, la donna russa, i muli, i pidocchi, il moschetto. Ma esiste ancora l'erba verde? Esiste il verde? E poi dormo. Dormo. Dormo. Senza sognare nulla. Come una pietra sotto l'acqua. Quando la donna russa mi sveglia è tardi, mi ha lasciato dormire mezz'ora in più. In fretta leggo la coperta allo zaino, rimetto in tasca le bombe a mano e in testa l'elmetto. Quando sono pronto per uscire la donna mi porge una tazza di latte caldo. Latte come quello che si beve nelle malghe all'estate o che si mangia con la polenta nelle sere di gennaio. Non gallette e scatolette, non brodo gelato, non pagnotte ghiacciate, non vino vetroso per il freddo. Latte. E questa non è più Naya in Russia, ma vacche odorose di latte, pascoli in fiore tra boschi d'abete, cucine calde nelle sere di gennaio, quando le donne fanno la calza e i vecchi fumano la pipa e raccontano. La tazza di latte fuma nelle mie mani. Il vapore sale per il naso, va nel sangue. Bevo. Restituisco la tazza vuota alla donna, dicendo «Spasiba». Mi rivolgo poi ai tre imboscati. «Non venite?» «Ma dove vuoi andare?» mi risponde uno. «Siamo circondati dai russi e qui siamo al caldo». «Lo vedo», dico. «Io vado. Vi saluto e auguri». E ritorno fuori. Paese era tutto un brulicare, come quando nel bosco si introduce un bastone in un formicaio. Ragazzi, donne, bambini, vecchi entrano nelle isbe con fagotti e sacchi mezzi pieni e subito ritornavano fuori con i sacchi vuoti sotto il braccio. Andavano nei magazzini che bruciavano e prendevano tutto quello che riuscivano a salvare dalle fiamme. Slitte, muli, camion, automobili andavano e venivano senza scopo per le strade. Un gruppo di carri armati tedeschi fece presto ad aprirsi un passaggio tra quel groviglio. Un fumo giallo e acre si fermava sopra il villaggio e fasciava le case. Il cielo era grigio. Le isbe grigie, la neve, calpestata in tutti i sensi, era grigia. Avevo ancora in bocca il sapore del latte. Ormai ero fuori. Ora camminavo verso casa, sia quel che sia. Le mani in tasca, guardavo quello che succedeva intorno a me. Mi sentivo solo. Passavo davanti a un edificio, forse le scuole. Vidi pendere verso la strada due bandiere, una italiana e l'altra della Croce Rossa, e quest'ultima era così grande che quasi toccava terra. Divenni improvvisamente triste. Immaginavo il paese vuoto con i magazzini che finivano di bruciare, gli abitanti chiusi nelle isbe, qualche mulo abbandonato che rosicchiava i torsi dei cavoli che spuntavano dalla neve. Immaginavo i soldati russi che arrivavano. I muli, allo sferragliare dei carri armati, muovevano appena le orecchie. I nostri feriti guardavano dalle finestre dell'ospedale. Tutto era grigio e le due bandiere pendevano verso la strada deserta. Dall'ospedale ora stavano uscendo i feriti che potevano camminare e tentavano di aggrapparsi alle slitte e ai camion di passaggio. Non riuscivo a vedere un soldato della mia compagnia o del battaglione. Forse erano già partiti tutti. Vidi uno del Cervino che camminava così come camminavo io. Lo chiamai e andammo insieme. Chiesi notizie di conoscenti. Il Cervino era il battaglione con il quale avevo partecipato a un'azione dell'inverno precedente. «E il sergente Chienale?» chiesi. «È morto. E il tenente Sacchi?» «Morto. Tanti e tanti altri erano morti. Pochi, appena 10 forse, erano rimasti di quel Cervino che era più spavaldo di un battaglione di bersaglieri. Attraversai il paese, passando accanto ai magazzini che stavano bruciando. Più tardi seppi che alpini arrivati qui dalla linea erano entrati nei magazzini abbandonati e i soldati della sussistenza avevano detto: prendete quello che volete. Trovarono cioccolata, cognac, vino, marmellata, formaggio. Sparavano nelle botti di cognac che mettevano sotto la gavetta. Dopo tanto tribolare finalmente bevevano e mangiavano e dormivano. Molti non si svegliarono più, bruciati o assiderati. Altri, svegliandosi, si saranno trovati davanti al viso le canne dei mitra russi. Ma qualcuno è riuscito a raggiungerci e raccontare. Poco prima di uscire dal paese, tra tutta quella confusione, riuscii a vedere degli uomini della mia compagnia. Li raggiunsi. Al passaggio d'una balca, prima di entrare nella steppa libera, v'era tutto un ammasso di camion, di slitte, di auto. Camion erano rovesciati nel fondo della balca e là chi bestemmiava, chi gridava, chi chiamava aiuto per spingere o cercare di liberare la pista. Provai piacere quando vidi i camion rovesciati che non si potevano muovere e ricordai come nell'estate precedente, durante le interminabili marce notturne di avvicinamento, ci sorpassavano le lunghe autocolonne e la polvere color cioccolata delle piste si appiccicava al sudore di noi che si camminava sotto lo zaino, penetrava nella gola e ci faceva sputar giallo per delle settimane. E quelli della sussistenza, dei magazzini e del genio di retrovia ai lati della pista ci guardavano passare e ridevano. Sì, porca naia, ridevano. Ma questa volta si muoveranno anche loro. Diavolo se si muoveranno. Se vogliono arrivare a Baita, si muoveranno. Questo pensavo, mentre li guardavo affaccendarsi attorno alle loro macchine che portavano le scartoffie o i bagagli dei loro ufficiali o chissà che diavolo. Alle spalle si levavano le fiamme e il fumo degli incendi e si udiva sempre più vicino il rumore delle cannonate. Disincantatevi, imboscati! È giunta l'ora anche per voi di lasciare le ragazze delle isbe, le macchine da scrivere e tutti gli altri accidenti che il diavolo se li pigli. Imparerete a sparare con il fucile. Venite con noi se volete. Per noi ne abbiamo abbastanza. Pensavo a questo e questo pensiero mi metteva energia e calpestavo con forza la neve fuori dalla pista. Camminavo più spedito e andavo avanti. Risalimmo la balca. Attraverso la steppa si snodava la colonna che poi spariva dietro una collina lontano. Era una striscia come una S nera sulla neve bianca. Mi sembrava impossibile che ci fossero tanti uomini in Russia, una colonna così lunga. Quanti caposaldi come il nostro eravamo. Una colonna lunga che per tanti giorni doveva restarmi negli occhi e sempre nella memoria. Ma si avanzava lentamente, troppo lentamente. E così, con il gruppo che mi seguiva, ritornai fuori dalla pista per cercare di portarmi più avanti. Avevamo 2 Breda con qualche migliaio di colpi e ancora i viveri di riserva. Il peso ci faceva sprofondare nella neve, ma pure si andava molto più lesti della colonna. Gli spallacci dello zaino ci segavano le ascelle. Antonelli come sempre, bestemmiava. E Turn ogni tanto mi guardava come a dirmi: la finirà, no? C'era con noi qualcuno della squadra di Moreschi che cercava di rimanere qualche passo indietro per evitare il turno di portare l'arma. Antonelli inveiva contro costoro con le più belle parole dei bassi fondi veronesi. Si incontrava ogni tanto qualche uomo supino nella neve che, trassognato, ci guardava passare senza farci alcun cenno. Un ufficiale italiano con stivali e speroni, a un lato della pista, gesticolava e gridava insulsamente. Era ubriaco e ciondolava. Cadeva nella neve, si rialzava gridando chissà cosa e poi ritornava giù. Stava assieme a un carabiniere che cercava di sostenerlo e di tirarlo avanti. Infine si fermarono dietro un pagliaio isolato nella steppa. Più avanti incontrai altri soldati della mia compagnia, poi quattro uomini del mio plotone, tra cui Turrini e Bosio. Si erano arrangiata una piccola slitta e vi avevano caricato sopra la pesante e tre casse spalleggiabili di munizioni. Un po' qua e un po' là, lungo la colonna, ero riuscito a radunare quasi tutto il mio plotone. Ogni qualvolta un gruppetto si univa al mio, già grosso, era un piacere. Ci si chiamava per nome e si rideva, scherzando sulle nostre condizioni. Quelli che camminavano nella colonna alzavano gli occhi dalla neve, ci davano uno sguardo e ritornavano ad abbassare la testa. «Stiamo uniti», dicevo, «e camminiamo in fretta». Andrea Pennacchi ha letto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad Alta Voce è un programma Rai Radio 3.